Ecco, sono arrivato un attimino tardi. Che opinioni? Benvenuti. Buonasera. Episodio 223, forse, se non sbaglio. E come ci sono Jacopo e Andrea, ci avviciniamo al Natale, anche se non sarà l'episodio di Natale, ma abbiamo un episodio di Natale che io ho, come si dice, sottostimato, sottovalutato, ammazzato, in modo che i miei compagni podcast diranno che gli è piaciuto il film, ma ne parleremo che poi prossimo. Bellissimo, esatto. Ecco, appunto. Questa settimana noi invece ci focalizziamo sul terzo capitolo di Ryan Johnson, ovvero Wake Up Dead Man, Knives Out. È uscito su Netflix, credo la settimana scorsa, perché deve uscire, noi registriamo oggi, esce il 20, sì, circa una settimana fa. Ed è appunto il terzo capitolo della saga di Knives Out. Allora, Netflix ha comprato il franchise, quindi penso che ci sarà anche un quarto capitolo, un quinto capitolo, eccetera, eccetera. E parliamo intanto di che cos'è questo. Vabbè, Knives Out ne abbiamo già parlato sia del primo sia del secondo, mi pare, nel podcast. E, quindi sempre la trama è sempre un giallo con un... Ah, diciamo, gli elementi di trama sono sempre gli stessi. Giallo, mix tra Agatha Christie e un altro giallista. E un cast di facce molto note per tipo come parte della sceneggiatura, no? Di fatto per essere un Knives Out ci devono essere degli attoroni, e l'investigatore è sempre Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Accompagna Daniel Craig, di nuovo una sfilza di attori molto famosi, più o meno famosi. Abbiamo Mila Kunis, Jeremy Renner, Andrew Scott, Thomas Hayden Church, Josh Brolin, cioè veramente c'è di tutto. Josh O'Connor, che è il solito coprotagonista, che viene prima accusato, poi non viene accusato, poi è compagno di Daniel Craig, eccetera, eccetera. E Kerry Washington, c'è un Jeffrey Wright che fa tipo 2 minuti di set, e anche James Faulkner che fa qualcosa tipo un minuto di cinema. Glenn Close, chi ho scordato? Vabbè, ho scordato sicuramente probabilmente qualcuno. qualcuno. Sì, qualcuno di famoso. Al contrario dei precedenti, dunque, il primo Knives Out, per chi se lo fosse dimenticato, è diventato famoso perché diciamo che trattava di un giallo a metà tra quello che è un giallo classico e un giallo di quelli americani un po' più recenti, in cui diciamo c'è un inseguimento dell'assassino, cioè diciamo l'investigatore deve fare in modo di trovare le prove per incastrare l'assassino, e anche diciamo, è diventato famoso per i suoi colpi di scena, un po' di umorismo, di fatto non si prendeva sul serio, ma allo stesso tempo faceva un po' di commedia. E da questo film ne è seguito un secondo, Glass Onion, che invece in cui Ryan Johnson ha deciso di prendere in giro il genere. E allo stesso tempo però si è scordato alcune cose del genere, tipo non ha mostrato delle cose a schermo, quindi non c'erano gli elementi classici dei gialli per risolvere il caso. E c'era un po' troppo di meta cosi, insomma il secondo capitolo non è piaciuto tanto. Questo terzo capitolo invece neanche a noi, tra l'altro, anzi noi abbiamo proprio detto che era una merda forse. No. E il terzo capitolo... Non, cioè, non proprio una merda, però. Boh. Ok, non tutti noi andiamo. Il terzo capitolo invece decide di giocare su quello che è Allora, ritorna un po' alle origini, quindi abbiamo un delitto a porte chiuse, gli elementi che sono tutti in scena, e una sorta di nuovo una sorta di stanza in cui ci sono tutti gli i sospettati, e in cui il detective deve un po' trovare gli indizi per accusarli sia nelle loro storie sia nel, diciamo, negli indizi di trama, e poi cerca di giocare un po' su quello che è il rapporto tra l'uomo e la fede, e fa questa cosa un po' sapio, diciamo, mette in campo la chiesa, diciamo, diciamolo, è un film cristiano. Oh no. Vabbè, senza fare, diciamo, troppi spoiler, perché in questo caso sono molto importanti per il film, diciamo che la trama va avanti un po' come gli scorsi, ma ha alcuni elementi, diciamo, di novità, appunto, la parte di cristianesimo, la parte di, quindi, di fede, non fede, eccetera, fede mischiata a quello che è, non l'ateismo, non direi ateismo, ma direi più la razionalità del detective, e... c'è anche un po' di caccia al tesoro che ci ha messo dentro. Che dire? Ah, non ci sono dati ovviamente di box office né niente, o meglio sì, il film è uscito al cinema ma per un brevissimo periodo e credo solo in America o solo in alcuni stati. E, so che è costato una vagonata di soldi, ma penso soprattutto per il cast, e so che... Rian Johnson ha detto che ha già 1000 idee per 1000 sequel. Prima di entrare nel dettaglio, vabbè, nel dettaglio in realtà, prima di sapere, di chiedervi a voi la vostra opinione, vi dico la mia opinione. A me è piaciucchiato. Il film dura un botto, troppo, ma non lo dico perché odio i film lunghi, lo dico perché ci sono proprio dei dialoghi che sono... troppo inutili. E un'altra cosa che non mi è piaciuta del film è il fatto che, al contrario dei precedenti, o meglio al contrario del primo, perché in realtà il secondo, boh, vabbè, lascia il tempo che trova, non dico che qui sappiamo già chi è l'assassino, però non, a mio parere non perde troppo tempo nel dare allo spettatore delle false piste, ecco. Cioè, ok, lui, tu hai, come in ogni delitto classico all'Agatha Christie, tu, ogni personaggio ha le sue motivazioni per aver ucciso, in questo caso, il prete. Non ho detto è morto il prete, non ho detto niente della trama. Bastardo. E diciamo che in questo caso non, secondo me non, cioè, tu hai le motivazioni di ogni personaggio, è vero, ma non hai mai un dubbio su, ah sì, e quindi potrebbe essere stato lui o potrebbe essere stata lei. Cioè, non, a mio parere non, è più una roba di azione, di indagine, ma mai lega diciamo le scoperte di Benoit al personaggio. Non so se avete avuto anche voi la stessa impressione. Quindi quello che succede è che alcuni personaggi sono un po' sacrificati. Per esempio, il personaggio di Simone, il personaggio di Ross. Magari se introduco qualcosa da trama aiuto, no? Forse. No, vabbè, facciamo anche questo allora. E il protagonista in questo caso è un prete. Un prete pugile, che, diciamo, come punizione per la sua condotta, poi la sua condotta ha fatto una mezza cazzata, beh, comunque lasciamo stare come funziona il cristianesimo, il cattolicesimo, il coso in America, viene trasferito in una chiesa in campagna, che è gestita da Monsignor Jefferson, questo prete un po' ambiguo, che, diciamo, ha qualche problemino nel suo passato di... probabilmente cioè mostra qualche piccolo problema sia nella gestione della chiesa sia nel, diciamo, nei suoi complessi passati dal punto di vista psicologico. Insieme a lui ci sono diversi personaggi, c'è la Perpetua e poi c'è una sorta di fan club di questo monsignore, che sono i suoi fedeli più affiatati. Anche perché ci viene presentato il Monsignore come uno che non bada, cioè non, diciamo che non fa parafrasi quando vuol parlare di una persona, cioè gli spara proprio merda e cerca di allontanarlo dalla chiesa più che accoglierlo come dovrebbe fare un prete. E quindi diciamo che abbiamo questi personaggi, questi suoi fedeli e questo prete novizio che viene appunto messo lì. E c'è subito un attrito tra questo prete e il Monsignore, e, finché un giorno il Monsignore muore nel bel mezzo di una messa, in un punto in cui è completamente isolato dagli altri, quindi da lì c'è il delitto a porte chiuse. In questa messa sono presenti solo i suoi fedeli, il prete e la... come si chiama? La priora, la... Che cazzo si chiama la... Vabbè. L'assistente del prete. Oh no. Si scopre subito che io non sono un vero cristiano. Perpetua. La perpetua. E quindi viene accusato, come al solito, il prete novizio, e Benoit Blanc è quello che è introdotto nell'indagine per, da una parte, trovare le prove per accusare il prete, dall'altra verificare se effettivamente è stato lui. Vabbè, e questo non l'avevo detto prima, magari dovevo dirlo prima, però quello che succede è che fondamentalmente tutti i presenti in chiesa, compreso il prete, hanno dei motivi per uccidere il Monsignor Jefferson, no? Come succede in tutti i gialli classici. Di questi personaggi però pochissimi hanno una vera motivazione, anzi quasi nessuno. Di fatto solo uno, il dottore, a mio parere, ha una motivazione forte per ucciderlo. E questo non sarebbe un problema di per sé se non fosse che poi gli altri personaggi non vengono mai veramente... indagati. Anche la parte interrogatorio non esiste, perché tu vedi questa parte dal punto di vista del prete, non dal punto di vista di Benoit, e quindi non lo so, boh, mi sono perso un po' di personaggi, ecco. E, tolto questa parte, in realtà il film è molto godibile, secondo me dal punto di vista di intrattenimento c'è al 100%, c'è un po' di sospensione dell'incredulità come succede di solito in Knives Out. Però a parte quello, secondo me torna tutto. Voi che ne avete pensato? Beh. No, guarda, allora, a me si è piaciuto molto. Vabbè, io il genere questo, cioè, lo amo, infatti non so, di solito i film lunghi anche a me un po' pesano, però questo no, per me scorre bene. Non so se è il fatto che appunto magari il genere piace, però e non mi è pesato troppo guardarlo. E sono d'accordo con te sul fatto che cioè non dà troppe piste. Quello mi sarebbe piaciuto vedere appunto, cioè, ognuno c'ha. Cioè, ci sono le motivazioni, ognuno c'ha un motivo per uccidere appunto la vittima del film, anche forti secondo me in realtà, non come hai detto tu, però non ci sono piste effettivamente, cioè non è che non ti spinge a dire come hai detto che tu potrebbe essere stato lui. Cioè non ti fa vedere qualcosa, sì, non ti dà neanche il tempo pista. Per farlo. Sì, esatto. E quindi quello mi sarebbe piaciuto magari vedere un po' di più. Per il resto per me funziona bene, alla fine non il mistero è capire come si è avvenuto il delitto più che capire chi è stato a commettere il delitto. Sì, ah, è vero. E dove sta il tesoro, perché di fatto c'è anche quell'elemento. Sì, esatto. Però dai, boh, secondo me funziona un po'. Cioè, non è al livello del primo, forse, però... No, beh, rispetto al secondo è incredibilmente bello, cioè... Non... Sì. Vero, vero. Jacopo, se n'è andato. No, sono qui. No, sto riflettendo su questa cosa, perché in realtà... Knives Out è sempre stato un po' così. Cioè, in realtà il secondo è una piccola eccezione. Secondo me questo un po' recupera il primo. A me è piaciuto pure il secondo, ma perché l'ho trovato proprio un colpo di cecchino partito molto prima che Elon Musk fosse pubblicamente un problema. Cioè, sapevo, la parte sapio. La parte sapio mi è piaciuta del secondo, ma anche la parte di... come posso dire... di meccanica, no? Perché quella è la parte interessante di tutti i Knives Out. Cioè, nel senso, la parte figa del secondo... non so se spoilerarlo, perché forse... Vabbè, per chi non ha visto, cazzi vostri, cioè, skippate i prossimi 14 secondi. Ma cosa fatto fanno? Gemelle, vengono, no? A sentire la recensione del terzo, non avendo visto il secondo, siete dei bastardi. Ma che cazzo ne so, tanto sono tutti stand-alone. Vabbè, ormai sono passati 14 secondi, Sala me l'ha fatto spiegare, quindi non posso spoilerare ulteriormente il secondo. Se avete capito a cosa mi riferisco, bene, se no niente. Comunque, in questo, come diceva Andrea, come nel primo, il punto non è cosa è successo, ma come. Cioè, tu... È vero che nel primo c'è un bel twistone, e un po' anche in questo, secondo me, perché in questo... Non so come dirlo senza spoilerare, però... Se qualcuno conosce il genere, anche un minimo, e magari ha letto qualcosa di Sherlock Holmes, o ha visto la serie di Sherlock Holmes, o ha letto quei libri che vengono citati a un certo punto, che sono pure famosi, cioè, libri di Agatha Christie, eccetera, ti aspetti una certa cosa, ma conoscendo Knives Out ti aspetti anche un'altra, che poi è quella che alla fine è quella vera, cioè, nel senso, secondo me fa un buon lavoro a darti un paio di piste in termini di meccanica più che in termini di colpevoli, ma per me è più interessante in questo film rispetto al secondo proprio il personaggio, cioè il personaggio che stiamo seguendo e il suo problema con questa chiesa. Non so come dirlo senza spoilerare, però l'ho trovato meno... come dire, meno ovvio di quanto mi aspettassi, meno come sono figo io che critico Donald Trump, cioè, capito, non è una critica vuota e diretta ed esplicita, è un pochino più ragionata, che ho apprezzato. Non è ragionata abbastanza, forse, cioè è comunque abbastanza esagerato il personaggio di Josh Brolin. Sì, lui è anche quell'altro, Daryl McCormack, quello che fa Daryl McCormack, Sidraven, quello del... Sidraven, sì, hanno fatto una scelta perfetta di casting, secondo me, per Sai, è veramente, secondo me è perfetto per quel ruolo, però sì, cioè, hanno un pochino forse calcato troppo la mano su di loro, però ci sta, è un Knives Out anche nel primo Chris... che si chiama il personaggio di Coso. Ah, non mi ricordo assolutamente niente del primo. Però sì, ho capito quello che stai dicendo. Di come si chiamava? Vabbè, sì, quello col maglione. Ma dici Chris Evans? No. Sì, il personaggio di Chris Evans. Si chiamava... Era un nome strano. No. Ransom, esatto. Nome perfetto. Quindi boh, a me è piaciuto, come avete già detto voi, mi ha tenuto parecchio, che comunque per un film di 2 ore e mezza, cioè a me è proprio volato. Bravissimo il protagonista, il prete, bravi tutti. Forse l'unica, posso dire, l'unica che un po' ci ho creduto di meno è Mila Kunis, purtroppo, scusate. Cioè, nel senso... Mila Kunis, bravo. Ma anche Andrew Scott è abbastanza imbarazzante. Andrew Scott pure, sì, non è molto azzeccato come cast. Cioè, lui è bravo, ma non è questo il suo personaggio. Secondo me questo andava più ad un... non so, come si chiama quello di Dexter? Vabbè, avete capito? Serial killer. Sì, Trinity Killer di Dexter, quello lì. Non so, cioè... Avrei preferito qualcosina di più a livello proprio di costruzione dei delitti, dei misteri, ma non è stato per me questo, diciamo, il fulcro. Cioè, ho molto più apprezzato il resto stavolta rispetto al secondo. Migliore rimane il primo, sicuramente. Sì, no, beh, certo. Però appunto almeno si è ripreso, secondo me, dallo scivolone, o comunque dall'andamento, anche come critica, come pubblico rispetto al secondo. Questo è nettamente più bello. Piccola nota, la telefonata mi ha quasi fatto commuovere. cioè bello, sì. È super semplice, non dico altro, ma è veramente proprio ti fa fermare il film, ma bene, cioè non ti fa fermare il film tipo oh che coglioni, cioè tipo stiamo qui mo' mezz'ora. È, proprio, è ben fatta quella scena ed è anche un po', va un po' secondo me a contornare tutto quel quella specie di surreale, di iperreale con la luce, con il sole che c'è in questo film, no? Con la gestione del sole coperto, non coperto, vetrate, insomma tutte queste belle immagini, queste belle scelte di fotografia, Salla. Sì, che viene ripetuta mille volte quella cosa. Ad nauseam. Perché devi guardare a destra all'alba del terzo giorno. È uscita you see Gandalf. Me, ah, è uscito il 3. Now you treat me. Niente. Un po' paura per i sequel, però diciamo che se si prende il suo tempo e esce un prodotto così, va bene. Cioè, se Netflix paga altri 150 milioni, va bene. Io spero che il prossimo sia più a basso budget, che esca nelle sale, in più sale, anche se Netflix non lo farà mai, no, e che sia più concentrato sull'incastro, diciamo, come il primo e sui personaggi. Non so, è che lui si è preso questa roba di dover cambiare ogni... che poi ci sta, per l'amor di Dio, però di dover cambiare ogni volta le tematiche, perché comunque questo è molto diverso dal primo, è più simile quasi al secondo come tipo di scelta di sceneggiatura, nel senso che è un giallo sì, però vuol dire anche altro. Il primo era un po' meno evidente, era più giallo. E quindi se si è preso la briga di farli così, boh, non so, cioè ci sta, però deve avere una bella idea. Sì, boh, il primo mi sembrava anche più cattivo, cioè che ogni personaggio era molto più, non so come dire, cioè erano più caratterizzati secondo me i personaggi di contorno oltre a lei e al detective, sì. Ed erano anche, pur essendo diciamo meno apparentemente malvagi, diciamo, degli altri due film, non so, mi sembravano più cattivi come rappresentazione delle loro rispettive, come dire, di quello che ognuno rappresentava, perché poi alla fine pure là ognuno c'era il suo, no? C'era il piccolo nazista, il piccolo non so, la tizia che vende le candele alla vagina e tutto il suo. È vero. Vabbè, qui era l'unico fuori di testa completamente, è il prete, cioè quello che muore. Gli altri non dico che siano quasi condivisibili, però boh. Non lo so, Rick. Sono personaggi quasi normali. Americani, sì, ma quasi normali. Ma ecco, americani più o meno. Vabbè, no, sì, normale è in America. Sì, sì. Il povero giardiniere è l'unico normale, la povera perpetua pure è, come dire, è un po' tragica nel suo essere bastarda. Sì, però per esempio la tizia che fa l'avvocato, insomma, è fuori di testa, ma... No, so. Lei pure è vero, lei è, sì, sì. È abbastanza normale, sì. Vabbè, comunque il film appunto è molto godibile, se avete Netflix vi consiglio, non l'avete ancora fatto, vi consiglio di guardarlo. Dovete, come tutti gli altri Knives Out, tenere presente il contesto, che ovviamente non vuole essere una roba poliziesca realistica, ma vuole essere una roba più Agatha Christosa, quindi appunto giocare con gli avvenimenti, con i delitti perfetti, queste cose qua. Perché è questo che è. Anche il fatto che i due tizi prendano un tè col cadavere di fianco è abbastanza irrealistico, no? Sì. No, no, come Salla, non ti capita mai di bere un tè in laboratorio? Sorseggiare, esatto. Un cadavere in putrefazione di fianco. Vabbè, ma sì, ma è fresco fresco. Esatto, fresco fresco di 3 giorni. Vabbè, volevate aggiungere altro? Su questo no. Direi... È una rubrica? Ah, io ho visto un film che si chiama Heretic, per la rubrica film cristiani. Non so se l'avete visto, ma è un film horror che anche lì parla di religione, ma non è un film horror, quindi Andrea, non guardarlo. Ok. Nel senso che l'ho trovato molto interessante fino a un certo punto, poi dopo no, e come specie di thriller abbastanza carino, però è stato interessante vederlo in parallelo con Knives Out, diciamo. Comunque non ce la fai a guardare un horror vero ormai. Non ce la faccio, no, ma allora, in parte mi cago sotto, quindi ci sta, cioè non riesco a guardarli e quindi evito. Però ci sto a provare, non ne sto a trovare uno di horror normale, mo devo guardare Keeper, non so, vabbè, comunque... Niente, se qualcuno è interessato al genere cristianità, thriller e cose così, Heretic è una specie di horror thriller carino. Non bellissimo, però. Va bene. Niente rubrica. Niente rubrica. Va bene, dai, noi vi auguriamo buon Natale e poi ci vediamo prossima settimana con un film di Natale, ma non di quest'anno. Alla settimana prossima, ciao ciao. Ciao. Ciao.